Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Alcune canzoni hanno qualcosa di magico. Sono semplici, essenziali, quasi scarne, eppure riescono a penetrare nella mente e nel cuore di milioni di ascoltatori fino a diventare una sorta di colonna sonora di un paese intero. Gino Paoli, classe 1934, è uno dei più longevi e prolifici interpreti della musica leggera italiana e la sua voce particolare e straordinariamente riconoscibile è riuscita ad attraversare svariati decenni della nostra storia recente, regalando perle musicali che sono diventate il bagaglio emotivo di moltissimi appassionati. Le sue canzoni hanno accompagnato con dolcezza e malinconia migliaia di storie d'amore di diverse generazioni. 50 anni di carriera, 50 anni di canzoni sempre ispirate, talvolta ironiche, spesso graffianti e provocatorie. Con 30 album pubblicati, a cui si aggiungono 4 live, svariate apparizioni al Festival di Sanremo e alle maggiori manifestazioni musicali nazionali, Paoli è uno straordinario artista, la cui lunga carriera finisce per intrecciarsi con quella di numerosi altri artisti. Dici Gino Paoli e ti viene in mente Genova. Eppure la sua città natale è dall'altra parte del nord Italia, Monfalcone, provincia di Gorizia, dove Gino nasce in una famiglia in cui non mancano le velleità artistiche, almeno da parte di madre, che è pianista, mentre il padre, toscano, è ingegnere navale. In ogni caso, è il capoluogo ligure nel quale la sua famiglia si trasferisce pochi mesi dopo la sua nascita a creare i presupposti perché emerga tutto il suo talento. Si può dire, insomma, che il magnifico destino di Gino Paoli deve molto, moltissimo alla città della lanterna. A Genova, Pegli per la precisione, Gino acquisisce gli elementi chiave della sua formazione intellettuale. Alcuni di questi sono assimilati anche con brutalità, ad esempio nel capoluogo ligure l'infanzia di Gino Paoli si intreccia con l'esperienza della guerra e della lotta partigiana nel contesto di una delle città più antifasciste d'Italia. Un'esperienza che segna nel profondo la visione del mondo del cantautore. Fin dagli anni 50, Genova è una delle città intellettualmente più vive d'Italia. Qui i fermenti giovanili che accendono anni dopo la passione per il beat e il ribellismo sono già in piena ebollizione, molti anni prima del 68. Attorno a luoghi di culto come la Galleria del Deposito, nascono gruppi di artisti d'avanguardia che sperimentano e rompono gli schemi. Gino Paoli è un giovanotto pieno di idee e di talento. Ama disegnare, ma ha pochissima voglia di studiare. Ama l'indipendenza, le lunghe passeggiate nei carruggi, la compagnia degli amici. Così a 18 anni va a vivere da solo, in una soffitta, in un palazzo rosa che si affaccia sul mare, in via Capo di Santa Chiara. Mentre il fratello Guido ha grande confidenza con i libri, tanto che diventerà un fisico affermato, Gino prova a fare il pittore e poco dopo trova lavoro come grafico. Sono gli anni però in cui nasce la passione per la musica. Sono gli anni in cui Gino Paoli incontra una serie di artisti genovesi che lasceranno indelebilmente il segno sulla sua carriera. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, Gio Sentieri, Giorgio Calabrese, i fratelli Giampiero e Gianfranco Reverberi. Nomi mitici della musica leggera italiana, accomunati spesso nella definizione scuola dei cantautori genovesi. Sono stati i primi per i quali è stata spesa in Italia la definizione di canzone d'autore, i primi a curare nei dettagli testo e musica come fossero un unico elemento, a cercare di far riflettere i giovani attraverso le canzoni. Muovono i primi passi più o meno negli stessi anni, influenzandosi a vicenda, intrecciando musica, amori e amicizie. Paoli stringe un rapporto di amicizia particolare con Luigi Tenco, con cui dà vita alla sua prima band, i Diavoli del Rock. E lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. Gino e Luigi si sono conosciuti tra i banchi di scuola. Tenco ha 2 anni in meno, ma Gino Paoli pensa bene di farsi bocciare e da qui il loro incontro. È l'inizio di un rapporto molto stretto che si spezzerà solo un anno prima della morte di Luigi, quando entrambi, innamorati di Stefania Sandrelli, vedranno la rivalità in amore spezzare quel legame. Comunque Paoli, Tenco e gli altri futuri cantautori genovesi iniziano insieme in modo quasi zingaresco, un po' selvaggio, molto beat. La voce, la chitarra, all'inizio per Paoli sono quasi un gioco. Dirà sempre di avere iniziato a cantare nei locali genovesi semplicemente perché veniva pagato meglio di quanto lo fosse come grafico. L'uomo veramente decisivo per la carriera di Paoli è Giampiero Reverberi. Reverberi oggi è riconosciuto come uno dei grandissimi nomi della musica italiana, arrangiatore, musicista, compositore tra i più importanti del nostro paese. E il suo nome è spesso associato alla sua più celebre creatura, il gruppo dei Rondò Veneziano, creato nel 1980 e celebre in tutta Europa. Di poco più giovane di Paoli, perché nato a Genova nel 1939, dimostra una vocazione precocissima quando, nel Museo di Storia Naturale, dove il nonno lavora, viene attratto da un vecchio pianoforte abbandonato nei sotterranei, una visione folgorante che gli mostrerà letteralmente la strada da percorrere. A differenza degli altri musicisti genovesi che inizierà a frequentare in tenera età, Reverberi riceve una formazione musicale strutturata e precisa. I genitori lo affidano all'esperienza di una maestra che guida i suoi primi passi. A 16 anni entra nel Conservatorio di Genova sotto la guida del maestro Sergio Lauricella e si diploma in pianoforte a 19 anni. Aggiungerà un secondo diploma in composizione e direzione d'orchestra a 24. Poco più che ventenne, Giampiero Reverberi giunge a Milano, chiamato da suo fratello Gianfranco, collaboratore della prestigiosa etichetta Ricordi che si era aperta alla musica leggera. Gianfranco, infatti, deve partire per il servizio militare e indica nel fratello Giampiero il sostituto. Qui Reverberi inizia dapprima a collaborare con nomi importanti della scena milanese come Celentano, Gaber, Iannacci. Poi, quando il fratello Gianfranco torna, i due iniziano a convocare a Milano anche i loro amici genovesi. Il deus ex machina di questa cosa è stato Gianfranco Reverberi, il quale, tornando da militare dove aveva conosciuto Piero Ciampi, e lui, i matti lo attraevano sempre, Piero Ciampi era completamente pazzo, per cui tornò da militare con Piero Ciampi qui a Genova, che dormì un po' a casa mia, un po' a casa di Luigi, un po' a casa di quell'altro. Dopo un po' le mogli lo mandavano al diavolo perché si sbronzava tutte le sere, quelle robe lì, insomma. Venne assunto come direttore artistico alla Ricordi, a Milano. I genovesi hanno la saudade come i brasiliani e quindi lui si sentiva solo a Milano e voleva far venire a Milano tutti gli amici. Uno per uno li ha fatti venire a fare i cantanti, cosa che nessuno di noi pensava di essere neanche adatti. Oltre Gianfranco Reverberi c'era un altro pazzo scatenato che era Nanni Ricordi, che era appena tornato dall'America e gli avevano dato in mano la Ricordi dischi, il quale non vedeva le cose belle o brutte, ma basta che fossero strane. Per cui non so se abbia scambiato la nostra incapacità per stranezza, e praticamente uno per uno. Io ho cominciato cantando canzoni di Franco Franchi, che è il cantante Franco Franchi, Calabrese, Reverberi, insomma quelli che erano lì. Dedicato a te. Questi sogni son dedicati a te, dove tu sei ascoltali perché è dedicato a te. I primi pezzi che Paoli incide sono soprattutto brani composti da altri autori. Sono pezzi che non permettono la piena espressione della sensibilità dell'autore. Così ben presto si fa largo l'esigenza di una composizione originale e personale, anche vagamente autobiografica. E vivevamo tutti in una pensione a Milano, tutti insieme, e facevamo queste canzoni. Poi un giorno io ho detto, ma queste canzoni non è che mi... Ma è stato soltanto così, un caso, ho detto, vabbè, me ne scrivo una io, vediamo cosa. E ne ho scritta una, ma non. Cioè, così, proprio perché non avevo nessuna idea di cominciare a scrivere, anche a scrivere oltre che cantare. Tra parentesi, io continuavo a fare il mio mestiere, che era quello di fare il grafico. È così che nasce La Gatta, una canzone autobiografica che racconta i primi anni di povertà ma di grande entusiasmo e freschezza. La canzone racconta della prima abitazione di Gino, la soffitta di Boccadasse, affacciata sul mare, e dalla tenera gatta grigia che teneva compagnia al futuro cantautore con quella proverbiale macchia nera sul muso e che è per Paoli una compagna insostituibile. Ciacola, cioè chiacchiera in Veneto, è il nome della gatta. Quando dopo i primi soldi guadagnati con la musica Paoli riuscirà a prendersi una casa più confortevole e ad abbandonare la soffitta, Ciacola purtroppo muore. È un dolore immenso, ma è anche la rappresentazione metaforica della spensieratezza giovanile che se ne va. È raccontato il fatto che io, con i primi soldi che avevo fatto con questa nuova attività parallela di cantante, avevo cambiato casa, ero andato a stare a Genova in via Paganini, e dopo 2 mesi che stavo nel nuovo posto la gatta è morta. È stato poi un giro di boa, no? Un giro di boa. E di lì è cambiato tutto. Mi è cambiato tutto 2 o 3 volte, 4 volte la mia vita, non è mica. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Il brano viene magistralmente arrangiato da Giampiero Reverberi. È la prima vera collaborazione tra i due, ed è la collaborazione destinata a lanciare Paoli. L'elemento che cattura il pubblico, però, è anche e soprattutto la scrittura particolare di Paoli, molto intima, personale, diaristica, con vene di esistenzialismo. La canzone nasce come una specie di disagio che c'hai dentro, di disturbo che devi in qualche maniera tirar fuori. E questo disturbo però può entrare dentro di te, so, 40 anni fa, e poi piano piano si pulisce, diventa qualcosa che si può scrivere. Lo scrivere può durare anche 5 minuti, e tutto quello che c'è prima che diventa, può essere lunghissimo. Io Sapore di Sale l'ho scritta in 5 minuti. Averti addosso, che è una canzone che io amo molto, la prima idea mi è venuta 30 anni, 40 anni prima, e poi piano piano un giorno ho trovato le parole giuste per dirla. Però scrivere è sempre una specie di traduzione di un'emozione, quindi in qualche maniera c'è la difficoltà del tradurre, e c'è anche il fatto che in qualche maniera la tradisci questa emozione, perché non potrai mai scriverla esattamente come emozione, la scrivi con dei mezzi concreti, quindi è difficile. La canzone viene scritta da Paoli, che però all'epoca non è ancora iscritto alla SIAE. Quando il brano inizia a circolare oltre le previsioni, deve essere registrato in tutta fretta, e così coautore del brano risulta un giovane e promettente paroliere di Casa Ricordi, Giulio Rapetti, in arte Mogol. Un elemento curioso è che Paoli inizialmente firmi il brano con lo pseudonimo che era solito utilizzare ai suoi esordi nei primi spettacoli dal vivo, C.Bacal. Per Gino Paoli è il successo vero. Inizialmente La Gatta è in realtà un colossale fiasco. Poi, quasi per caso, con il passaparola, diventa un successo straordinario, con 3.000 copie vendute in 24 ore. La Gatta viene suonata in tutti i jukebox d'Italia e Paoli diventa uno dei cantautori più apprezzati dell'epoca. Non solo, La Gatta varca anche i confini nazionali e arriva oltralpe, dove niente meno che Edith Piaf decide di inciderla. Purtroppo però la grande interprete francese è già troppo malata e muore prima di riuscire a farlo. Paoli, d'altro canto, sembra ancora non credere a tutto questo successo. Lo vive con un fondo di sospetto, come qualcosa di transitorio ed effimero, che potrebbe svanire da un momento all'altro. Fino al 1962 non abbandona il lavoro di grafico. Io ho tenuto il mio lavoro per 2 anni. La chiusura del mio lavoro è stata una cosa molto buffa, perché il direttore amministrativo della ditta di grafica, di pubblicità per cui lavoravo. Allora fare il lavoro di pubblicitario non significava soltanto fare il bozzetto, significava andare a parlare col cliente, andare in tipografia, fa tutto. Era una cosa abbastanza. Il bozzetto era il meno, secondo me. Comunque il bozzetto era importante. Mi chiamò l'amministratore e mi disse: ma quanto prende lei per fare una serata? E io credevo volesse fare una serata per la ditta. Sì, Sì, che dico, no, ma non mi ricordo, era 150.000 lire, mi sembra. E lei qua? Allora, quando lei ha detto è lei qua, ho capito che c'era qualcosa che non andava. E lei qua quanto prende al mese? 60.000 lire. E dice, non è sempre il caso di smettere? E io dico, guarda, io smetto, però lei mi deve fare una lettera di buona uscita, che se va a puttane questo lavoro posso riprenderlo da un'altra parte. Stia tranquillo. E mi ha fatto una lettera perché io ho conservato, naturalmente. Se mi buttano fuori da questo vado con la mia lettera di buona uscita. E così ho smesso, ma ho smesso nel 62 io. Il lavoro di musicista di Gino Paoli è destinato a regalargli un successo straordinario e longevo, ricco di tante gioie e di qualche amarezza, ma sempre caratterizzato da intensità e spessore. Un inesauribile cantastorie che saprà vivere e raccontare l'amore come pochi hanno saputo fare. Il successo di La Gatta e la grande intuizione di Reverberi procurano a Paoli numerose altre occasioni. La più fruttuosa è indubbiamente quella che lo porta a collaborare con Mina. Mogol propone a Mina, cantante già affermata, di incidere Il cielo in una stanza scritta da Paoli, ma che porta appunto la sua firma come paroliere e quella del maestro Renato Angiolini, che si firma con lo pseudonimo di Toang come compositore. L'enorme successo di vendite di questo brano, ispirato a Paoli da un bordello dove si trovava un giorno e che rimane in classifica per più di 6 mesi, sancisce la definitiva affermazione di Gino Paoli come cantautore. Il tema centrale della poetica di Gino Paoli è indubbiamente l'amore. Paoli è uno straordinario narratore dell'amore in ogni sua forma e le sue canzoni hanno commentato nel tempo storie di generazioni diverse. L'amore, indubbiamente, ha ricoperto un ruolo centrale anche nella vita del cantautore genovese, in una fusione continua di arte e vita che ha conferito alla sua musica uno straordinario spessore umano. Le donne sono la passione della mia vita, nel senso del femminile. Io credo, non credo che avrei una ragione sufficiente per vivere se non ci fossero le donne. Saranno molti gli amori che arricchiranno la vita di Gino Paoli e tutti lasceranno un segno indelebile nella sua carriera. A partire dalla prima moglie, Anna Fabbri, che gli darà anche un figlio nel 1964. Gino Paoli la conosce nel 1954 e 3 anni dopo si sposano. Sono entrambi giovanissimi. Lui ha poco più di 20 anni e lei ne ha 4 in meno e studia ancora ragioneria. Anna è bionda, solare, atletica, colma di entusiasmo e di vitalità. Si trasferisce con Gino nella soffitta di Boccadasse, dove lui fa il pittore e lei è la sua modella preferita. Non fa mancare nemmeno il suo apporto economico, iniziando a lavorare come segretaria e aiutandola ad affrontare le spese quotidiane. L'evoluzione della carriera di Gino Paoli seguirà molto da vicino l'andamento della sua vita sentimentale, tra alti e bassi, momenti di euforia e di depressione. La storia d'amore forse più celebre e discussa della vita di Gino Paoli è indubbiamente quella con Stefania Sandrelli, che inizia quando lei è minorenne e lui sta per diventare padre. E per questo fa parlare a lungo male lingue e ben pensanti. A lei Paoli dedica il suo 45 giri più famoso. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me. Vicino a me. Eh sì, uno degli episodi più celebri e controversi legati a Paoli è il suo tentato suicidio, gesto compiuto per motivi mai chiariti fino in fondo e con una modalità molto particolare, sparandosi una pallottola nel cuore. Come è noto, il proiettile buca il cuore e si conficca nel pericardio, dove si trova tuttora. Il cantante sopravvive. Se si considera che a proposito dell'amore, egli è convinto che il sentimento che si accende per una persona non se ne vada mai davvero dal cuore, quel proiettile sembra una potente metafora della visione dell'amore di Gino Paoli. Io sono convinto che voler bene una persona nasce dalle qualità di questa persona, non nasce dal fatto che ha dei begli occhi, insomma. Si può prendere un'infigata non si dice quando si parla forbiti. Si può essere innamorato, va bene innamorato. Si può prendere un'innamorata se vuoi, però voler bene, amare, per me, per cominciare è un'abitudine e poi dipende dalle qualità di quella persona. Non vedo perché queste qualità debbano improvvisamente sparire. Tutte le volte che devo parlare di questo mi sento molto imbarazzato perché non capisco come si possa vederla diversamente, cioè semplicemente. Cioè, se io voglio bene una persona, gli vorrò bene finché no, a meno che questa non diventi matta e diventi un'altra persona, ma finché ha le stesse qualità per cui l'ho amata, non vedo perché dovrei interrompere il mio rapporto con lei. A riprova di questa visione del mondo c'è la storia d'amore breve e intensissima che Gino Paoli vive con una collega cantante, una storia fondamentale per la vita e la carriera di entrambi. Si tratta di Ornella Vanoni. Per spiegare la magia del rapporto che lega Gino Paoli e Ornella Vanoni, è utile partire da un momento di gran lunga successivo nel tempo, il 13 settembre 1984. Siamo a Roma, al Festival dell'Unità. Gli organizzatori hanno previsto in una sola sera due concerti. In un'area del festival si esibisce Gianna Nannini, è l'evento musicale di punta. All'ultimo, quasi per caso, è stato però allestito anche un secondo concerto al Velodromo Olimpico. Suonano insieme, dopo un lungo, lunghissimo distacco professionale e personale, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Su questa cosa, un paio di impresari si sono messi d'accordo che volevano fare questa tournée e io non la volevo fare. Non mi interessava, non volevo farla, niente. A botte di dai, per dai, facciamola, insomma, mi hanno convinto e l'ho fatto. È stato un successo. Andavamo nei posti, c'era la gente dal giorno prima che aspettava per avere il biglietto, eccetera. La formula era far finta di essere innamorati, insomma, far finta che questo amore ci fosse, insomma, già allora. Eravamo talmente bravi che mia mamma mi ha telefonato e mi ha detto: ma te avrà mica intenzione di metterti ancora con quella lì? Perché mia madre era veneta. E io ho detto: no, mamma, tutta l'attenzione. E se il feeling sul palco funziona così bene, è perché il legame che si era creato tra Gino Paoli e Ornella Vanoni, sia quello sentimentale, sia quello artistico e intellettuale, era fortissimo. Sono nati a un giorno di distanza l'uno dall'altra, e quando si incontrano nel 1960, lei per tutti è ancora la cantante della Mala. Ornella Vanoni era entrata nel mondo dello spettacolo nel 1953 iscrivendosi all'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Strehler. In breve tempo era diventata la sua allieva prediletta e lui l'aveva fatta esordire proponendole di cantare durante gli intervalli dei Giacobini di Zardi alcune canzoni per permettere il cambio delle scene sul palco. Così Ornella Vanoni comincia a proporsi in veste di cantante con brani che le fruttano diversi apprezzamenti della critica. Poi Strehler costruisce, a partire da vecchie ballate dialettali, delle canzoni, le cosiddette canzoni della Mala, dove vengono descritte le vicende di furfanti, ladri, criminali e poliziotti, ambientate a Milano. Strehler decide di firmare i brani come antichi canti anonimi ritrovati dopo una serie di ricerche, e in questo modo alimenta il mistero attorno a queste canzoni e a questa giovane cantante di cui si sa veramente poco. Addirittura il pubblico si chiede se questa ragazza che canta le canzoni della Mala sia davvero una donna proveniente da quegli ambienti. Non li pigliassi senza di te, ma se parlasse, io firmo qua il tuo condono, la libertà. A cambiare la carriera di Ornella arrivano prima il fidanzamento con il produttore Luciano Ardenzi, poi l'incontro e l'amore travolgente con Gino Paoli, nonostante il quale poi Ornella finirà con lo sposare Ardenzi. Di quell'amore, durato più o meno un anno, Ornella dice che è stato un autentico colpo di fulmine e ricorda: Paoli l'ho amato tantissimo, l'incontro è stato casuale in da Rapetti, che era il padre di Mogol, che aveva le edizioni. Io ero vestita di nero, lui lo è vestito di nero, in questo ci siamo in un certo senso riconosciuti, che avevamo una cultura francese, diciamo, più che americana. E io chiedevo: chi è quello lì? Quando è andato di là. Mi hanno detto: ma si chiama Gino Paoli, è gay, gay. Allora si usava una parola molto più pesante e scrive delle canzoni orrende. Ah, beh, intanto lui stava suonando malissimo e c'era in una stanza, dicevo, proprio orrenda, a me non mi pare. E lui di là chiede: quella rossa chi è? Ah, guarda, la cantante della Mala, porta anche sfiga ed è lesbica. Anche Paoli riconosce il profondo legame con Ornella e si sente in qualche modo fondamentale per la scoperta della vera identità artistica della cantante milanese. Beh, in qualche maniera, insomma, in qualche maniera Ornella viene da me, cioè sono io che gli ho insegnato a cantare, nel senso che lei cantava come soprano e cantava le canzoni della Malavita. E insomma, praticamente a Sberle l'ho fatta cantare perché inizialmente non ce la faccio, piangevo, perché io ogni tanto piange e non ce la faccio. Quindi in qualche maniera, insomma, se... E poi c'è un fatto essenziale, che io scrivo canzoni che devono essere interpretate. E è una grande interprete. No, è l'unica. Cioè, è una donna impossibile, però è una grande interprete. Zuccona, antimusicale, ma è grande interprete. Cioè, all'interprete puoi perdonare tutto. A una cantante, la cantante deve essere perfetta, se no non vale niente. Però in Italia di interpreti c'è solo lei. Questa è la realtà. A Ornella Paoli dedica anche un ritratto, uno dei suoi ultimi quadri prima di abbandonare la pittura. Ma soprattutto costruisce su di lei una canzone straordinaria, di cui in tutto il mondo esistono addirittura 400 versioni, Senza fine. Un brano che permette a Ornella di compiere il definitivo salto verso il successo e a Paoli di raggiungere l'assoluta consacrazione come autore. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Un musicista intenso come Gino Paoli ha subito naturalmente l'influenza di movimenti culturali e musicali stranieri. Il primo riferimento rintracciabile nella sua musica è quasi scontato. Paoli ha 20 anni, negli anni 50. Così non può sottrarsi al fascino che gli States esercitano sull'Italia all'inizio del boom economico. Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday e poi il jazz, naturalmente. Dopo gli americani a formare culturalmente e musicalmente il giovane Gino, arrivano dunque gli esistenzialisti francesi, che hanno su di lui un'influenza altrettanto determinante. Quando Paoli ha 17 anni, gli esistenzialisti rappresentano la migliore risposta alla sopraffazione della guerra e ai malesseri della società di allora. La musica francese era sempre stata legata all'impegno, sia intellettuale che politico. Non si poteva immaginare Juliette Gréco senza immaginare dietro di lei personaggi straordinari e affascinanti come Prévert, Sartre e Simone de Beauvoir. Quella francese non era una musica alla quale venivano applicate delle parole a caso, come nelle canzonette italiane del tempo. C'era sempre un equilibrio e un forte legame tra le note musicali e il testo. Ed è proprio questo che più tardi caratterizzerà lo stile di Paoli. Il primo nome fra i grandi cantautori francesi che esercita un grande fascino e una decisa influenza su Gino Paoli è quello di Georges Brassens, che verrà sempre riconosciuto da Paoli come un maestro. L'influenza di Brassens si può cogliere in molti pezzi di Paoli, che nel 1972 gli rende omaggio incidendo Marcia nuziale, una cover del grande cantautore francese. Un giorno di povere nozze, où mon père et ma mère s'allèrent épouser devant Monsieur le Maire. Marcia nuziale è un pezzo cui Paoli si è sempre dichiarato estremamente legato, in quanto gli ricorda la vita dei suoi nonni. Se questa canzone però è l'unica cover che Paoli attinge dal repertorio di Brassens, con maggiore frequenza invece il cantautore genovese pesca da altre grandi voci transalpine a lui affini, come Aznavour, Becot e soprattutto l'artista che maggiormente lo influenzerà, Léo Ferré. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Léo Ferré, classe 1916, rappresenta forse la massima espressione in Europa della poesia in musica e ha lasciato un patrimonio artistico immenso di canzoni, poesie, sinfonie e anche saggi e romanzi. La sua discografia in Italia non è così abbondante come meriterebbe il pensiero e lo spessore intellettuale di un irriducibile anarchico e osservatore della vita. Ferré e Paoli si conoscono personalmente, si stimano, diventano amici. Così diventa naturale per Paoli portare in italiano uno dei pezzi più belli di Ferré, Avec le temps, che nella versione di Gino Paoli diventa la splendida Con il tempo. Nel 1975, al Festival Nazionale dei Giovani Comunisti a Ravenna, i due hanno anche l'occasione di esibirsi insieme in un concerto magico che riesce a sedare e a tacitare le proteste del gruppo di autonomi che minacciava di boicottare lo spettacolo. L'Italia è un paese ricco di contraddizioni e di sorprese, che fonde politica e cultura popolare, sacro e profano, e questo Gino Paoli lo sa molto bene. L'Italia, io ho fatto anche parecchi giri per il mondo. Qual è la caratteristica dell'Italia? È che svolti l'angolo è tutto diverso, in qualsiasi momento, da qualsiasi parte. C'è tutto. Io capisco gli stranieri che si affascinano quando vengono in Italia, perché l'Italia è talmente poliedrica che in qualsiasi, cioè tu puoi vedere la montagna, il mare. Io ho girato l'Italia per 50 anni, quindi la conosco parecchio e continuo ancora a stupirmi, perché l'Italia non è un paese dove tu dici beh, vai a vedere quello. No, prendi la strada, cammina e qualsiasi angolo, dopo l'angolo troverai una sorpresa, qualcosa di diverso. Questo è il bello dell'Italia. Col tempo tutto se ne va. 50 anni di carriera che sembra non voler conoscere il viale del tramonto. Nel 1991 Paoli ha quasi 60 anni e forse proprio grazie alla grande esperienza accumulata, ai tanti incontri, alle mille facce, riesce a pubblicare un altro album capolavoro, denso e sereno. È Matto come un gatto, album il cui brano trainante, Quattro amici, vincerà il Festival Bar. Nel 2004 esce il disco di inediti Ti ricordi? No, non mi ricordo, realizzato nuovamente in duetto con Ornella Vanoni. Da qui parte un nuovo tour che li porta a duettare ancora insieme nei teatri d'Italia e che porta all'uscita di un doppio live l'anno successivo. Una nuova fantastica tappa di una carriera straordinaria. Sono un po' troppi i 50 anni. E poi non sono un uomo da ricordi. Ho incontrato personaggi straordinari che ho amato molto. Credo che i personaggi che mi hanno impressionato di più sono soprattutto i francesi, Jacques Brel e Léo Ferré, che ho conosciuto. Con Ferré sono stato amico finché c'è stato. E poi va bene anche i cubani come Rodriguez e poi gli spagnoli. Io ascolto un po' tutto, quindi ho conosciuto un sacco di gente, insomma. Però in particolare forse in particolare un aneddoto che posso raccontare è quello che una volta ho fatto un concerto con Toquinho, che è un cantante brasiliano, e lui ha detto che si trovava bene con me, con Gio Gilberto, con me, quindi mi è andata molto bene, direi. E poi un incontro straordinario, quello con Vinicius, che secondo me è uno dei più grossi poeti che hanno scritto canzoni, credo che sia forse il massimo, insieme a Brassens, sono i due poeti di riferimento. Senza fine, tu trascini senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già.